Allora, incominciamo, anche se stavamo aspettando Pierpaolo che forse voleva fare un'introduzione, ma se compare gli diamo la parola così in corso d'opera. Buongiorno a tutti, sì. Buongiorno a tutti. Allora, siamo qui per presentare questo libro di Veragheno, Potere alle parole, perché usarle meglio di Einaudi. Veragheno la conoscete tutti, ma la ripresentiamo. È una sociolinguista. E ancora molte persone non hanno capito che cosa significhi esattamente questa cosa. Dal mio punto di vista è che per fortuna non è solo una linguista, perché io ho un problema proprio personale con i linguisti, essendo filosofo, ma poi ne parleremo nel corso della presentazione. Però Veragheno è tante cose, perché per esempio fino a poco tempo fa era la gestrice, come si definiva lei, del profilo Twitter dell'Accademia della Crusca, e oggi invece collabora con Zanichelli, sempre nell'ambito dei social network, delle attività nella comunicazione digitale, e quindi ha questa caratteristica di essere sia una studiosa della lingua e dei comportamenti umani attraverso la lingua, ma anche una che ha le mani in pasta, cioè poi ha a che fare con il pubblico in maniera piuttosto diretta, cioè con quel pubblico che, come sappiamo bene, sui social network, con la disintermediazione che avviene online, diciamo, lei per tanto tempo e ancora oggi continua a battere e ribattere su temi, discussioni, su questioni di lingua. Ma poi Veragheno è anche altro, perché è una traduttrice, è di madrelingua ungherese, perché la mamma è ungherese, ed è una delle più importanti traduttrici dell'ungherese in Italia. No, ha tradotto delle cose veramente molto belle, poi magari ci racconti anche di quelle se vuoi. E insomma, oggi siamo qui per parlare del suo testo e siamo qui con Antonio Paolini, di cui io non so mai spiegare esattamente che lavoro fa, però quello che posso dire è che no, è un serissimo analista di business, soprattutto legati ai modelli mediatici, nella comunicazione, ma è anche una persona che conosce molto bene la rete, molto bene l'online, le dinamiche online, e diciamo anche lui con le parole ha a che fare molto. Poi vedremo come te la caverai stamattina con Veragheno accanto. Io voglio iniziare in un modo un po' strano, perché io dicevo che ho un pregiudizio sui linguisti, perché io sono filosofo e mi occupo di discussioni e credo che uno degli errori, non è vero che lo fanno i linguisti, ovviamente sto esagerando apposta, è quello di dare troppa importanza alle parole in se stesse. Quando invece, quando parliamo di parole, non è che parliamo di etichette che funzionano, tipo così, pillole magiche che uno mette in giro e fanno un certo effetto sugli altri. La parola è una cosa complessa, è il frutto di tante cose. E allora c'è una presa in giro che faccio sempre e dico: i linguisti, appena incominciano a parlare di parole, citano quel pezzo della Sacra Scrittura, in principio era il verbo, no? Avete presente? Che è esattamente l'incipit di questo libro di Veragheno, no? Tu inizi praticamente nel primo capitolo, nel perché parliamo, vedi, non se lo ricorda neanche lei, dice: ma insomma, perché parliamo? Perché non ci limitiamo a emettere una gamma di grugniti come fanno gli animali? Gli esseri umani, unici tra tutte le specie, hanno il dono della parola. Anzi, come ci ricordano molti studiosi, l'essere umano è tale proprio perché ha il verbo. In principio era il verbo, troviamo scritto nel Vangelo secondo Giovanni. Che si sia credente o meno, la potenza di questa affermazione ci tocca da vicino. Quindi, diciamo, iniziamo perfettamente nel cliché del linguista. Si sta arrabbiando, ma vedete che alla fine questo è un elogio al suo libro, non vi preoccupate. E allora io faccio sempre la battuta: i linguisti è che non vanno avanti nella Bibbia, non arrivano alla lettera di San Giacomo, dove San Giacomo invece dice: è la lingua, la parola, perché è dalla stessa bocca, dalle stesse parole, che esce ogni benedizione e ogni maledizione. Cioè, se San Giovanni è rimasto l'idea: ah, la parola, quanto è importante la parola, anzi, addirittura la parola è Dio, no? Il verbo era presso Dio, il verbo era Dio. San Giovanni comincia a essere un po' più realista, dice: sì, ma con le parole noi riusciamo anche a distruggerci, non soltanto a costruire, non soltanto a esprimerci al meglio, ma anche a riuscire ad annientare quello a cui dovrebbe, diciamo, quello che siamo riusciti a costruire con il linguaggio, che è qualcosa che ci serve in realtà per coltivare le relazioni con gli altri, per spiegarci e per inserirci nel mondo, per trovare il nostro mondo, posto nel mondo e dire chi siamo. E allora l'altra citazione che faccio è il maestro Manzi, che quando iniziò con la trasmissione Non è mai troppo tardi, iniziò così dicendo: basta una parola per aprire un mondo nuovo davanti a noi. Allora io penso che questa sia la vera prospettiva che proviamo ad affrontare stamattina, cioè queste parole poi in realtà forse sono molto più simili a quello che ci cerca di dire il maestro Manzi, cioè non sono etichette, ma sono sistemi di relazione, diciamo così, di significati in relazione che ci parlano di mondi interi e quindi sono qualcosa di davvero così importante. Cioè hanno ragione i linguisti a dire che la parola è importante, ma è importante vederla non come punto inizio che lancio lì e ha un effetto, ma forse invece come una cima, una vetta, no? Da salire faticosamente per capire cos'è la parola, ma è anche una vetta che una volta raggiunge apre all'altro lato della montagna e riapre un altro mondo, no? C'è un mondo che diventa parola, ma poi la parola a sua volta riapre ad altri possibili mondi che sono i significati che gli altri intendono o non intendono. Ecco, io credo che il pregio del libro di Verageno è che ci sta parlando di questo, che poi è il potere della parola di costruire o di distruggere mondi. E allora questo potere, se noi impariamo ad usarlo meglio, impariamo ad essere più consapevoli di averlo, ed è un potere tra l'altro assolutamente democratico, perché se c'è una categoria a cui tutti apparteniamo è quella del paroletariato, cioè perlomeno le parole ce le abbiamo tutti, chi più e chi meno, però non sono qualcosa che acquisiamo per forza pagandole o per condizioni. Certo, conta molto l'educazione, conta molto la scuola, però alla fine come esseri umani noi le parole le abbiamo. E allora in questo libro si riscopre un potere che riguarda davvero tutti, ed è un potere profondamente democratico, che Vera tra l'altro vive, scrive, descrive e propone con la prospettiva di uno dei suoi maestri, che è De Mauro, no? Che parlava del non uno di meno, cioè l'idea di un'educazione linguistica che raggiunga davvero tutti, anzi che sia preoccupata principalmente e in maniera prioritaria dell'ultimo, cioè di quello che è più in difficoltà, di quello che è più indietro rispetto all'uso della parola. Insomma, in questo libro c'è tanto e io vorrei, diciamo, iniziare proprio da questo, Vera. Ma insomma, queste parole, cosa sono le parole veramente? Cos'è la lingua? Perché hai scritto un libro di questo tipo? Abbiamo il microfono, cucciolino. Allora, intanto grazie alla provocazione, che in realtà non è una provocazione, perché nel momento in cui cito in principio il verbo, questo non vuol dire assolutamente che il verbo sia una cosa buona e basta, cioè non vorrei dare l'impressione di aver scritto un libro buonista o di Galateo della lingua. Diciamo che credo ci sia effettivamente la necessità di rendersi conto di quanto la parola sia anche pericolosa, se usata male, ma anche se usata bene, cioè è proprio un'arma, volendo, no? Io spesso dico che, lo diciamo spesso tutti, che le parole possono essere fiori o possono essere proiettili. Chiaramente le parole sono come la punta di un iceberg di significati sotto, cioè arrivano nel tempo, si stratificano, le possiamo creare tutti, no? Per esempio una cosa che per un linguista è un po' quasi banale, no? Da dire, infatti se dico i miei colleghi alzano un sopracciglio, ma che per esempio le persone non sempre sanno, è che non c'è una patente di creatori di parole. Cioè, in realtà tutti creiamo parole, le parole nascono, crescono, si modificano nel tempo, assumono significati diversi, dobbiamo mediare sul significato delle parole, perché non è detto che vogliano dire la stessa cosa per tutti. Ogni parola nasconde un universo di significati, è molto frattale la conoscenza linguistica, cioè si può andare all'infinito nel micro e trovare sempre nuove cose, nuovi riferimenti e così via. Per esempio un collega che recentemente ha scritto un libro molto bello parlava di come l'etimologia fosse centrale per capire anche noi stessi, l'etimologia delle parole come via per comprendere meglio anche l'essere umano. Ora, perché vi racconto tutto questo? Io nei tanti anni che ho condiviso, diciamo, con i miei colleghi in Crusca, io sono stata 20 anni all'Accademia della Crusca, cioè sono stata metà della mia vita all'interno di un contesto molto colto e anche molto rarefatto, no? Cioè, c'è proprio un'aria diversa in Crusca, è come quando sali in cima al Monte Bianco, no? C'è un'ossigenazione un po' diversa. Allora, lì in quelle sale a annusare libri, considerate che la Crusca ha una collezione di incunaboli favolosa, cioè sono testi che sono serviti agli accademici della Crusca per scrivere il primo vocabolario, che è del 1612, giusto per darvi una prospettiva. Questi sono i libri sotto chiave, no? C'è tutta una parete della Crusca che contiene questi libri in gabbia, come se fossero pericolosi, in realtà siamo noi pericolosi per loro, e una delle cose che ogni tanto succedeva è che questi libri andavano spolverati. Allora aprivamo le gabbie e ci mettevamo a guardare questi libri. che intanto sono meglio conservati dei gialli degli anni 70, perché la carta si faceva col cotone, no? Insomma, aveva una prospettiva di vita diversa dalla carta attuale, ma poi l'odore, no? Cioè io sono stata per 20 anni in un contesto in cui forse l'esperienza centrale non era tanto l'incontro con le persone, ma era l'incontro con i libri. Quindi io ho questa prospettiva. In quel contesto, la cosa di cui mi sono resa conto è molte cose che i linguisti, essendo dei, come dire, facendo dei ragionamenti metacognitivi sulla lingua, danno per scontate, fuori da quel contesto rarefatto, fuori dal, scesi dal Monte Bianco, non sono altrettanto ovvie. In queste competenze rientra dove nascono le parole, come nascono le parole, come entrano le parole nel vocabolario, cosa vuol dire dare l'etichetta di parola sbagliata, di sbagliato, diciamo, una parola, o darle l'etichetta di essere giusta, che cos'è il politicamente corretto, cosa succede quando le persone non hanno pienamente il governo delle proprie parole, come si forma la competenza linguistica, tutte queste cose qui che un linguista studia all'università, ma che secondo me non basta che i linguisti studino all'università, perché in realtà servono a tutti. Cioè io a volte faccio lezioni a ragazzi molto piccoli, tipo dalla terza elementare in su, e chiedo anche un po' di sfida, chi è che crea le parole? Allora, mediamente in una classe di 25-30 ragazzini qualcuno che risponde Dio c'è sempre, eh? Quindi Dio crea le parole. Allora io replico con un altro pezzettino della Bibbia che dice Dio creò gli animali e le piante e li portò davanti all'uomo perché l'uomo gli desse un nome. Non c'è bisogno di essere credenti, cioè non ne faccio un discorso di credenza, ne faccio un discorso di, considerate la Bibbia un precipitato di saggezza, no? Qua, in ogni caso quello è, e già nella Bibbia si parla di questa cosa fondamentale, cioè che è l'uomo che dà i nomi alle cose. Allora, considerate che il centro della mia esperienza in Crusca è stato Petaloso, e farà ridere, però Petaloso segna un discrimine molto importante nel rapporto fra gli italiani e la loro lingua madre, perché ragionamenti linguistici nel contesto popolare si sono sempre fatti. Esiste proprio come dire, un settore della conoscenza linguistica che i linguisti con un po' di puzza sotto il naso chiamano la linguistica ingenua. Si chiama così, il linguista selvaggio, no? Quello che ha delle intuizioni, ma no? Nella linguistica ingenua rientrano per esempio le paretimologie, tipo le etimologie fatte per assonanza, che sono quasi sempre sbagliate. E ci sono anche degli esempi nel libro, tipo piantare in asso, che qualcuno ha riformulato come piantare in nasso in riferimento al dito di Arianna, ovviamente è un'etimologia troppo alta per essere credibile, no? Oppure quella di in bocca al lupo, che in realtà sarebbe un augurio riferito al fatto che la mamma lupacchiotta porta in giro i lupetti in bocca per metterli in salvo. Ovviamente sono tutte stronzate, perché il lupo in realtà è da sempre la creatura più violenta dei nostri boschi, e quindi in bocca al lupo invece rientra nel classico augurio antifrastico, cioè ti auguro il peggio per augurarti il meglio. Allora, per paragonare, in ungherese si dice kese schlapturist, che vuol dire ti auguro di romperti gambe e braccia. Questo è il nostro augurio, no? Tu stai andando a fare un esame all'università, ti auguro di spaccarti gli arti, però gli inglesi dicono break a leg, quindi no? Cioè gli ungheresi sono un pochino più barocchi, diciamo così, ecco. Però, ecco, c'è una linguistica ingenua, però io credo che oggi, che diciamo tutti di vivere, cioè questa è la società dell'informazione e della comunicazione, non basta la linguistica ingenua. Cioè per me la linguistica, cioè il ragionamento sulla lingua, è qualcosa che ci può far crescere tutti. Non è un sapere scientifico, un sapere ancillare, ecco, rispetto ad altre competenze. Cioè in realtà noi oggi non dobbiamo imparare a usare meglio il cellulare, che quello possiamo darlo un po' per dato, cioè chi più chi meno. Quello che dobbiamo imparare a usare meglio secondo me sono le parole. Perché in entrata conoscere meglio le parole, capire come funziona la lingua, ci rende per esempio meno manipolabili. Cioè una cosa molto pratica. Capisco per esempio che nel titolo di una notizia su un giornale vengono usate delle parole trigger apposta per provocarmi delle reazioni, no? Marocchino in veste donna, ecco già, dove dire, c'è un momento in cui mi si tappa la vena, ecco l'ennesimo immigrato eccetera, e poi rifletto perché usare proprio marocchino nel titolo, ecco. voglio dire, la mia speranza è che con potere alle parole si possa capire che la conoscenza linguistica ha una ricaduta praticissima. La ricaduta praticissima è quella di permetterci di vivere un po' meglio questo presente al quale nessuno ci aveva preparato, diciamo così. Noi abbiamo scritto un libro che, fra l'altro, abbiamo presentato qui l'anno scorso, sempre in una matinée domenicale, che evidentemente è il nostro spot, in Tienilo acceso, noi parliamo anche di questo, cioè del fatto che alla fine, più che una competenza tecnica, oggi c'è bisogno di aumentare la competenza linguistica. Questo è il senso della centralità della parola. Ovviamente la parola di per sé non è nulla se non un cartellino, la parola è è la cuspide di una rete di relazioni fra esseri umani, fra cose e nomi, fra noi, il mondo e le parole, diciamo una specie di ménage à trois perenne. E è questa assolutamente la prospettiva in cui ho scritto il libro. Non è un manuale per parlare bene, non è un galateo linguistico, è un libro per me molto comunista. E infatti io ho insistito molto sia sul titolo, che doveva essere diverso, e io ho lottato per avere potere alle parole, sia per la copertina. Se vedete, c'è una cassetta degli attrezzi e il riferimento è a una delle prime cose che mi disse De Mauro incontrandole, che poi lui, Tullio, ha scritto spesso nei suoi libri, che è: la lingua è come una cassetta degli attrezzi e tu puoi averla più o meno sguarnita o più o meno guarnita. Più strumenti hai e più ti diverti, e chi ha avuto l'esperienza di avere un problema in casa sa che mediamente nella cassetta degli attrezzi manca sempre l'attrezzo che ti serve. Cioè, c'hai 57 brugole e manca quella, no? Presente? Ecco. Allora, più brugole hai, più brugole linguistiche hai, in un certo senso, e meglio vivi. Quindi non è casuale neanche la scelta della cassetta degli attrezzi. Erano state proposte altri tipi di copertine che vertevano più sull'idea del duello, no? Quindi il fioretto, l'arma superata dalle parole, ma io non volevo una cosa bellica, io volevo una cosa proprio proletaria, cioè la cassetta, la sana, vecchia, robusta cassetta degli attrezzi. Questo vuol dire qualcosa? Ma prima mi vorrei unire all'applauso, nel mio caso condito anche dall'imbarazzo di parlare con due persone come Bruno e Vera davanti a un pubblico, anche solo per la loro proprietà di linguaggio, che per me è sempre... Io dovrei prendere appunti, come stavo facendo tutto il tempo. Guardando Tumblr, non dire. Adesso li prendo anch'io. Beh, almeno fai la scena. Io mi occupo di cose molto più tristi di quelle di cui si occupano Vera e Bruno. Detta proprio in termini tragici, direi che guardo i numeri che sono in fondo alle caselline dei bilanci dei gruppi editoriali e poi cerco di capire, risalendo, facendo reverse engineering, così si dice, risalendo all'indietro, cerco di capire come si è arrivati a fare soldi in quel modo con gli strumenti di comunicazione che tutti usiamo. E naturalmente il tema dell'uso delle parole, contorto per esigenze di business, è sempre, diciamo così, in sottotraccia, diciamo in filigrana, ed è naturalmente il momento in cui mi appassiono anche io a quello che vedo in quelle caselle, quindi poi studio quelli che hanno studiato, cioè, veramente, cioè appunto soprattutto i sociologi della comunicazione, ma poi anche intorno i linguisti, altri analisti di business che hanno studiato più di me, e cerco di arrivare a delle conclusioni. Io credo che mai come negli ultimi 20-30 anni, e questo numero dovrebbe farvi riflettere, si è parlato dell'uso delle parole, nonostante il fatto che uno dei refrain del racconto di questi tempi sia che siamo nella società dominata dalle immagini. In verità, ecco, la sensazione che ne ricavo personalmente è che si sia buttato, nel racconto per esempio di internet, negli ultimi 20 anni si è buttato il bambino con l'acqua sporca. Si dice che internet è esclusivamente il luogo, diciamo, di tutti i mali della società. Poi sul fatto, diciamo, che internet riveli quello che è nei mali della società piuttosto che esserne la causa, c'è un bellissimo libro che anche citi, quel libro di Mafia de Bagis, Luminol, che invito tutti a leggere. Ma non è solo questo, il problema è che abbiamo nel racconto, in questo racconto distopico di internet che ci porta ad essere ignoranti, che ci porta ad essere pressappochisti, superficiali, che addirittura crea il deficit di democrazia, in questo racconto stiamo dimenticando il fatto che internet ci ha rivelato in che modo gli italiani usano le parole, e quindi ha aperto, tra le varie cose che ha aperto, ci ha aperto gli occhi anche su questa storia delle parole degli italiani, su questo bagaglio dove prima noi avevamo come unico cuneo finale che ce lo diceva o il Di Maio della situazione o anche le lezioni del maestro Manzi che ci spiegavano quanto eravamo inadeguati. Cioè le persone che avevano studiato vedendo ai tempi i programmi del maestro Manzi dicevano: ah, quindi così parlano gli italiani. Cioè Manzi aveva dei momenti in cui diceva: vi sentite poveri quando vedete quelle scritte in quelle città dove andate a lavorare e non riuscite a leggere quelle scritte. Una cosa che visto adesso, e Bruno, insomma, che si occupa anche dell'archivio visivo della RAI, gli passano davanti agli occhi queste cose, no? Viene da accappolare la pelle. Quelli erano gli italiani, i contadini analogici e non i contadini digitali di oggi, come si dice, no? Non le invasioni barbariche di oggi. Noi siamo in larga misura i discendenti di quel paese. E quindi vedere finalmente per la prima volta negli ultimi 20-30 anni, grazie a internet, in che modo gli italiani usano le parole, e quindi le K, e quindi i congiuntivi sbagliati, e quindi tutte queste cose, è una lezione straordinaria per tutti, per confrontarsi, io credo. E poi c'è un'altra cosa che abbiamo buttato, no, insieme all'acqua sporca, il bambino, e cioè la riscoperta della scrittura, a prescindere dal fatto che vi siano gli errori. Gli italiani sono tornati a scrivere, questo cambia comunque la forma mentis, anche se tutti i modelli di business, e finalmente parlo di qualcosa di cui sono competente, tutti i modelli di business spingono disperatamente per far dimenticare alle persone che stanno scrivendo, che stanno dialogando. Tutti i modelli di business tendono a ritrasformare Facebook come una televisione, che stai lì e subisci una serie di riflessi condizionati, devi rispondere subito. WhatsApp, con la storia della doppia spunta, ci obbliga, e non si sa chi l'abbia stabilito, quale galateo l'abbia stabilito, a rispondere istantaneamente, senza riflettere. E invece non stiamo scrivendo. Stiamo producendo un senso strutturato con tutte le nostre inadeguatezze, con tutte le nostre sgrammaticature. Su WhatsApp noi stiamo scrivendo. E questa è una rivoluzione epocale, perché per anni dovevamo stare buoni, ascoltare la radio, poi buoni a guardare il film al cinema e infine buoni a guardare la televisione, che era la nostra unica chiave interpretativa del mondo, che sorreggeva non solo un sistema di potere, poteva avere un senso durante la guerra fredda, ma oggi sorregge i bastoncini di pesce, oggi sorregge il riso senza lattosio. Ora, io spero che tutti voi vogliate fare qualcosa di più dei mezzi di comunicazione che usate, no? Che fare in modo che qualcuno riesca a vendere più bastoncini di pesce. Soprattutto spero che voi non vogliate farvi dire quale deve essere la vostra dieta mediatica da qualcuno il cui obiettivo è vendere bastoncini di pesce. Premessa, io adoro i bastoncini di pesce, cioè non ho nulla contro quel prodotto, però per dire, non può essere un direttore marketing di qualcuno a dire in che modo scoprite il mondo attraverso i mezzi di comunicazione. Questo è drammatico e questo è un male sotterraneo molto più profondo dell'uso malevolo dei mezzi di comunicazione come propaganda politica di potere. Io mi sono letto Chomsky, Popper, McLuhan, eccetera, ok, però oggi abbiamo una grande opportunità che sarebbe appunto quella di tornare a usare le parole, ok, con tutte le nostre inadeguatezze, e invece che concentrarsi per motivi identitari, di cui parla molto bene Vera nel suo libro, sulla inadeguatezza dell'interlocutore che sbaglia un congiuntivo, ricominciamo a usare le parole per dialogare e farci ridefinire tra noi una dieta mediatica che è quella che vogliamo, perché internet è nata per le nostre scelte, ed è questa la cosa, diciamo, che fa tremare i muri delle stanze del potere molto di più di chiunque si metta lì a tavolino e studi freddamente un algoritmo per cercare di condizionare il voto alle elezioni politiche. Quello è un problema, una manifestazione di tanti problemi, Ma il vero problema è che, di cui nessuno parla, è che avremmo ancora la possibilità di ridefinire ciò che è rilevante per noi, dopo anni in cui tutto questo non è stato possibile. Ultima cosa sul valore tornato delle parole. Io 20 anni fa non ricordo che nelle nostre città meravigliose come Lecce ogni weekend si svolge, non ricordo che si svolgessero 2 o 3 festival contemporaneamente che riempiono le piazze, le librerie con dibattiti, persone come voi che state qui e state riempendo una libreria per guardare un palco dove ci sono 3 persone che stanno parlando. Ora, io credo che internet c'entri qualcosa in tutto questo, perché abbiamo smesso di farci raccontare tutto nel salotto di casa, siamo tornati a uscire di casa, a dialogare, a confrontarci. Già la storia del palco e del pubblico, diciamo, è ancora un retaggio, no? Poi c'è chi prova disperatamente a mettere il pubblico in cerchio, no? Vi ricordate Robin Hood? Sì, ci sono dei tentativi. Per il momento è così, poi ci saranno le domande alla fine magari, però già questo è rivoluzionario, siamo qui a parlarci. Okay. E quindi, insomma, quando aprite un altro bellissimo libro, che è quello The Game di Baricco, che vi dice che tutta la situazione in cui siamo oggi è esattamente ciò che impedisce alle persone di approfondire, perché siamo tutti stati gamificati da questa terrificante rivoluzione concepita da ingegneri bianchi in California a scapito degli europei, no? Ecco, tutta questa visione, obiettivamente, specialmente se Baricco lo dice in un teatro davanti a 2000 persone in un festival a Pisa, cioè è un po' controintuitiva, non so se siete d'accordo. Io voglio fare una domanda vera, sì, in realtà una domanda te la volevo fare a proposito del titolo. Tu hai detto che potere alle parole è stata una cosa per cui hai lottato, hai detto che c'erano altre proposte di copertina, cioè, però non hai detto quali altri titoli, non so se lo puoi fare, però non hai detto quali altri titoli ti avevano sì. Chiesto. Allora, no, in realtà non lo dico, okay. Però la prima reazione è stata è un titolo troppo comunista, questo è stato un po', cioè il succo era questo, io ho detto a me non sembra, però per sottolineare il concetto famolo rosso, così siamo sicuri che è ben chiaro il messaggio. Ovviamente Antonio, sono assolutamente d'accordo con tutto quello che hai detto, fra l'altro io anche tu, vabbè, tu hai un lavoro più serio, noi siamo degli scalzi ignudi in fondo, ma io Bruno, la vita mia e di Bruno è stata profondamente modificata dall'esistenza della rete. Io sono una reietta dell'accademia in senso classico, non dell'Accademia della Crusca, anche lì, ma dico ancora in senso più allargato dell'università. Uno, perché i sociolinguisti hanno un problema di definizione, non ci vuole nessuno, cioè i sociologi ci schifano, i linguisti non ci considerano pienamente linguisti, siamo un po' delle figure ibride con cui nessuno vuole avere a che fare. Fate conto di una cosa, esiste una tassonomia dei saperi, che è quella in base alla quale si fa l'abilitazione scientifica nazionale. La sociolinguistica nessuno sa dove metterla, perché ci sono 2 settori, linguistica e glottologia, o linguistica italiana e filologia, e la sociolinguistica è un po' nel mezzo e non sa cosa fare. Ok, allora già non siamo pienamente riconosciuti come studiosi. Io per di più ho questo brutto vizio di non amare le gerarchie, mettiamole in questi termini. Quindi io sono una reietta in qualche modo del mondo universitario, io sono 18 anni che insegno all'università rigorosamente da contrattista, quindi praticamente gratis. Non so se sapete quanto prende un docente a contratto in università italiana, io prendo 800 euro l'anno, non al mese, l'anno. Quindi questo è proprio qualcosa che faccio pro bono e lo faccio da 18 anni, giusto per darvi un'idea. Allora, in questo contesto, quello che io faccio con i social network, cioè banalmente quello per esempio di discutere di un'idea che mi sto facendo, di una teoria che sto valutando, sulla quale sto lavorando su Facebook, per me è una situazione di enorme arricchimento, perché io butto lì una cosa, cioè butto, allora sto lavorando sul concetto di ta ta ta ta, le persone iniziano a intervenire, no? Chiaramente c'è una un surplus di persone che magari non hanno gli strumenti dialettici per aggiungere realmente qualcosa alla discussione e dicono sono d'accordo, non sono d'accordo, ma, no? Quello che su Facebook ti commenta ma e poi non esplica perché dice ma, vabbè, ma al di là di questo si creano dei gangli di discussione che a me insegnano tanto. Allora, io questa è una cosa che dico ai colleghi che di rimando mi dicono no, ma io su Facebook o sui social non ci sto perché la gente stanno male, sono brutti e sporchi e no, e brrr, no? E io dico guardate che su internet poi incontrate anche un sacco di gente che vi scaccola la teoria, cioè vi trova i bachi, vi trova i punti deboli, vi costringe a tornare su una cosa di cui eravate convinti. Io la uso così la rete, per cui quando mi dici internet come arricchimento, cavolo, io so, cioè, nel senso, ne fruisco in prima fila. Ma anche, scusami, sì. Anche arricchimento pop, nel senso che sulla Treccani non troverai mai una voce che descrive la leggenda del Philadelphia Experiment. Su Wikipedia la trovi, e pur nella consapevolezza che quella è un altro tipo di cultura, naturalmente, è un arricchimento anche quello. Sì, tra l'altro anche basta con questa cultura a compartimenti stagni, cioè io ho visto che un modo molto chiaro per far capire le cose a chiunque è quello di fare esempi tratti dalla nostra cultura quotidiana, dal pop, dalle canzoni, da, no? Cioè l'esempio più efficace di che polivalente, no, di questa creatura strana che uno studia a un certo punto quando viene introdotto il concetto di italiano neo standard, è un verso di Jovanotti. No? Sono un ragazzo fortunato perché non c'è niente che ho bisogno. Almeno una volta l'avete sentito tutti. Che schifo, una cosa normalissima. La ragazza che ti ho detto ieri sera, cioè quel genere lì. No, allora, in realtà, in questo mi riallaccio anche alla questione Maestro Manzi, poi abbattetemi se parlo troppo. Allora, ovviamente un modo molto efficace di aver contezza di perché oggi siamo come siamo, con le nostre debolezze, eccetera, eccetera, è quello di guardarci in una prospettiva diacronica, cioè di fare un passo indietro e dire aspettate, ma com'è che siamo arrivati al presente? E la storia dell'italiano è incredibile, cioè l'italiano è stato ingessato per 700 anni, cioè io l'ho scoperto tardi e ho dovuto farci una riflessione sopra, ma vi siete mai chiesti come mai noi leggiamo Dante con questa nonchalance? Cioè, nel mezzo del cammino di nostra vita mi ritrovai per una selva oscura che la dritta via era smarrita. Cavolo, è stato scritto nel 1300. Adesso prendete, lo faccio nel libro, prendete un Chaucer, l'incipit delle Canterbury Tales. Ok, qualche bravo, dai, recita tutta. No, io non, in inglese è meglio di no. Vabbè, apprezzeremo lo stesso lo sforzo perché noi siamo molto accoglienti, no? Poi gli inglesi in realtà non sono mica come i francesi. Poi racconterò un aneddoto sul tunnel sotto la Manica a proposito dello sciovinismo francese. Vabbè, comunque, prendete un Chaucer, un madrelingua inglese fa fatica a capire Chaucer, cioè ha bisogno di avere un training apposito sull'inglese antico, no? Magari avrà bisogno del vocabolario. Noi Dante lo leggiamo così. Poi sì, ci sono le parole che hanno cambiato un po' significato, per esempio scemarsi, che vuol dire dividersi, no? Magari uno non lo capisce subito, però perché noi leggiamo Dante così facilmente? Grazie al fatto che per 700 anni nessuno ha parlato l'italiano. Questo ha fatto sì che, come scrivo sempre, l'italiano è stato come un cappotto in naftalina. No, magari qualcuno di voi c'ha la mamma che ha messo via i vestiti negli anni 70 e poi sono tornati di moda, no? A parte che erano tutte più magroline le donne, però, no? Allora, a un certo punto, grazie all'enorme sforzo per l'italianizzazione del paese, eccetera, eccetera, in 100 anni dall'Unità d'Italia al 1960 si lavora sull'insegnare l'italiano agli italiani e si passa dal 2,5% nel momento dell'Unità d'Italia, che poi erano i toscani, cioè in sostanza erano i toscani che parlavano più o meno italiano, al 90% degli anni 60, e in quel momento, dagli anni 60 a oggi, cioè nei successivi 60 anni, che cosa succede? Succede una cosa meravigliosa, che però in altri paesi, in altre lingue, è successa nel corso di centinaia di anni, cioè gli italiani si appropriano della loro lingua e iniziano a cambiarla in base alle loro necessità. Perché la lingua non è un sistema che si è calato dall'alto, appunto, non viene da Dio, no, l'abbiamo creato noi e lo ottimizziamo in base alle nostre esigenze. Cioè, il trapassato remoto, il futuro anteriore, tutti belli, bello tutto, bella poserì, no? Come si suol dire, però quando è che li usiamo? Cioè ci dobbiamo proprio concentrare per usarli. Allora a un certo punto negli anni 80 alcuni linguisti si rendono conto che la norma che noi studiamo a scuola non corrisponde più del tutto a quello che noi usiamo nella nostra quotidianità. Da una parte abbiamo la lingua dell'egli, come la chiamo io, chi è che usa egli nella vita di tutti i giorni? Egli si recò. Cioè, egli si recò, lo trovate benissimo in un tema scolastico, oppure vabbè in testi degenerati come per esempio quelli del burocratese, no? Però nella nostra vita quotidiana nessuno dice egli si recò, diciamo tutti lui andò, pur sapendo che lui in posizione di soggetto sarebbe, secondo la grammatica ufficiale, sbagliata, ok? Allora, che cosa fanno i linguisti? Mica si imparpagliano, come scriverebbe Camilleri, dicono, ok, dobbiamo prendere atto del fatto che quella norma che noi studiamo a scuola non corrisponde più perfettamente a quello che noi facciamo per strada, e creano un concetto nuovo che alcuni chiamano italiano neostandard, questo è Berruto, Mioni chiama italiano tendenziale, Sabatini chiama italiano dell'uso medio, ma tutte le definizioni puntano a far notare la stessa cosa, cioè l'italiano che noi usiamo per strada è diverso da quello che studiamo a scuola. Lì rientra il che polivalente, il lui al posto dell'egli, il perché usato al posto di un sacco di altre cose tipo affinché, cioè anche affinché. Usiamo affinché parlando, beh, molto più raramente del perché in tutti i contesti. Oppure il presente pro futuro, cioè domani vado, no? O il passato prossimo al posto del passato remoto, cioè 10 anni fa sono andata in Finlandia, non andai, no? Poi qui dipende dalle regioni, perché invece ci sono le regioni in cui 10 minuti fa andai in bagno, no? Tipo la Sicilia. Oppure, ma che altri esempi posso fare? Vabbè, il modello se lo sapevo non venivo, su cui qualcuno ancora si adombra, ma vi ricordo, e lo ricordo nel libro, lo usava Manzoni. Cioè, se Renzo non faceva quella domanda, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi anche lì nulla di particolarmente nuovo. Perché stresso sulla questione storica? Perché nel momento in cui noi ci rendiamo conto che abbiamo una storia linguistica stranissima, italiano immobile per 700 anni che poi in 60 anni inizia a cambiare velocissimamente, ci rendiamo anche conto da dove viene il nostro disagio. Il nostro disagio è che ancora adesso a scuola noi studiamo la lingua dell'egli, che poi però non ha un corrispettivo nella vita reale, no? O non sempre. E allora che cosa accade? Accade che noi abbiamo un registro scolastico, dall'altra parte abbiamo il bellabro, cioè il modo in cui parliamo con i nostri pari, no? In maniera destrutturata, usando anche parolacce, e nel mezzo c'è un buco. E quel buco è come si scrive un curriculum, come ci si rapporta a qualcuno che ha una certa posizione specifica sociale, tipo come ci si rapporta con un sindaco, come ci si rapporta con un poliziotto, come ci si rapporta con un avvocato, come ci si rapporta con un medico. E non vorrei far sembrare che il problema è solo di quello che Poraccio non sa abbastanza. Il problema è anche all'inverso. Il problema è del colto che non riesce a scendere dalla predellina. Il problema è del medico che non riesce a passare da minzione notturna a signora quante volte fa la pipì, no? Il problema è sì della persona che apre il referto e legge negativo e non capisce se è un bene o un male, ma anche l'inverso, cioè anche, no, l'istituto di analisi cliniche che non si rende conto che positivo e negativo è chiaro solo per te. Allora, si stanno facendo passi nella direzione giusta? Sì, vi racconto un aneddoto scioccante per me. Io ho un amico che dirige un istituto di analisi cliniche che mi racconta questo. Allora, 4-5 anni fa gli arriva in laboratorio una richiesta per analisi per l'HIV, che viene fuori positiva, quindi la persona che ha fatto l'analisi del sangue è sieropositiva, ok, busta col bollino rosso, no? Quindi le buste particolari. L'anno dopo si ripresenta lo stesso signore per le stesse analisi, e l'anno dopo ancora. Allora, al quarto anno il direttore chiama i suoi dipendenti e dice: ragazzi, cioè, perché questo torna a fare il test HIV tutti gli anni? Perché sapete che una volta che uno fa un test positivo poi entra nel protocollo quello di, diciamo, per tenere sotto controllo la sieropositività. Non è che rifà il test, dato che non può ridiventare negativo tranne in casi rarissimi. E invece lì era a peggiorare, cioè era sempre più positivo, la carica virale era sempre più alta. Al quarto anno il direttore decide di bloccare il signore quando va a ritirare le analisi e parlarci. Allora, lo blocca, lo porta nella stanzetta e dice: scusi, ma lei perché torna tutti gli anni a fare il test HIV? Perché è sempre positivo, grazie al cielo. Cioè, guardi che vuol dire che lei è malato. Ma come? Il mio amico farmacista mi ha detto che è positivo, vuol dire che va bene. In quei quattro anni lui ha continuato a avere rapporti non protetti. E questo è stato un piccolo scandalo di un paio di anni fa, di una città di cui non farò il nome, che non è diventata una cosa pubblica, però la cosa sconvolgente era questo: in buonissima fede era convinto di essere sano, perché è positivo, no? Che è la prima lettura che daremmo tutti, ma è come il varco attivo del resto, no? Questo tutti pensano alla multa. Cioè, varco attivo è un'altra cosa interessante, perché per me che si fa le pippe mentali sulla lingua, varco attivo mi sembrava abbastanza chiaro, però se entro nella psicologia media, varco attivo vuol dire che ci puoi passare, no? Avete presente quelli delle ZTL? Quindi, no, e ora li stanno cambiando, cioè li stanno cambiando perché passaggio... Sì, ho presente che... Sì, non c'è più il varco, anche perché varco... No? Cioè, il problema per me, che sono appunto paroletaria, per usare un termine usato da Bruno, è avvicinare i due poli, cioè lavorare dal sotto alla Manzi perché tutti abbiano certe competenze che oggi non sono solo ABC e contare, ma anche stare in un mondo linguisticamente molto complesso. Dall'alto però, cioè, scendere questo livello di spocchia in tutti i settori, cioè... Vi racconto questo, poi ripasso la parola a Bruno, che intanto si sta calcificando qui al mio fianco. Cartello che ho fotografato anni fa a Firenze, in una viuzza del centro, che fra l'altro ha un nome evocativo, Via delle Belle Donne, chissà cosa ci facevano. Allora, era chiaramente la via dove c'erano le prostitute. Via delle Belle Donne, c'era un cartello, perché i fiorentini non lasciano nulla all'immaginazione, no? Cioè, pane, pane, vino al vino. Via delle Belle Donne, che è popolata oggi non più di prostitute ma di anziani, perché è una di quelle vie dove ancora abitano molte persone, molti aborigeni, c'era scritto: si pregano i cittadini di conferire le deiezioni canine nell'apposito cassonetto. Ora, c'era la vecchina che passava sotto col barboncino vecchino quanto lei, diceva: ma che cazzo vuol dire fiorentino, no? Ma che... vuol dire che deve portare la popò del cane nel cassonetto. E non lo potevano dire così. Sì, lo potevano dire così. Cioè, non magari il popò del cane, ma una via di mezzo, no? Cioè, anche cacca di cane, in fondo, dai, su. Escremento già è meglio di dei. Sì, ma anche escremento, secondo me, non becchi proprio tutti, Che è un po' la stessa questione del vitimare il titolo di viaggio. O obliterare. Tra l'altro è bellissimo perché in inglese obliterate vuol dire annientare. Quindi io mi immagino sempre il turista che dà fuoco al biglietto, no? Ci si accanisce, no? Perché... è rimasto intero. Esatto, the city was obliterated, si dice. No, qui immagino. Scusa, come gli inglesi reagiscono quando vedono nelle nostre gallerie italiane che c'è magari l'uscita del casello dell'autostrada, c'è scritto a fine tunnel. E lo leggono come una forma di auto incensamento della società. Una bellissima a fine time. Bellissimo. No, io vorrei rimanere proprio su questo tema di equivoci e fraintendimenti, perché secondo me è un tema centrale che riguarda proprio le parole. Cioè, le parole sono un vero problema, intanto perché la maggior parte delle nostre situazioni comunicative hanno tutto un altro aiuto che ci permette di comunicare, che è il corpo. Cioè, quanto ci aiuta la comunicazione non verbale, che oltre le parole ci aiuta a metterci in un certo atteggiamento nei confronti degli altri, anche ammorbidendoli, oppure rendendoci conto che l'altro non sta capendo niente, quindi ci aiuta a cambiare registro, eccetera. Quindi c'è questo punto qua, e l'altro è il fatto che poi alla fine certi termini non sono univoci, ma anzi sono frutto di un'argomentazione, cioè bisogna spiegarsi che cosa si intende per un certo termine. Questo lo dico perché nella mia esperienza di tornei di dibattito nei licei, c'è una parte del protocollo che noi usiamo che è il prologo, in cui ogni squadra deve anzitutto definire cosa intende per i termini della questione. Perché immaginate se il dibattito è giusto ogni in certi casi limitare la libertà d'espressione? Beh, la primissima argomentazione per fare un dibattito è dire che cosa intendi per libertà, che cosa intendi per libertà d'espressione, che cosa intendi per limitare. Che se non anzitutto non dici queste parole, in che sistema di relazioni di significati le metti, il dibattito va a vuoto. Allora, perché tutto questo preambolo? Ti faccio una domanda: come facciamo online? Perché online noi abbiamo due caratteristiche. Uno, stiamo ormai usando la scrittura come forma più comune di comunicazione, cosa che non avveniva prima. Prima la scrittura era solo un certo momento della nostra comunicazione, no? Oggi invece tra WhatsApp, commenti, blog, articoli, c'è possibilità di esprimere il proprio pensiero in modo informale di fronte agli altri, velocemente, e lo facciamo come scrittura. Secondo, lo facciamo in radicale assenza di corpo. Cioè, nel senso che immaginatevi su WhatsApp quando uno manda un messaggio, tra l'altro all'interno di una chat comune, quel messaggio raggiunge persone che sono anche in situazioni diverse, più o meno distratte. Qualcuno sarà sull'autobus e dà uno sguardo veloce al tuo messaggio, un altro sarà seduto invece con calma nel silenzio e se lo legge per bene, altri ancora forse mentre stanno parlando con qualcun altro distratti. Insomma, la mia domanda è: questo aggiunge una competenza? Cioè, dovremmo incominciare a scrivere in modo diverso? Imparare a scrivere in modo diverso? Forse in un modello che assomiglia più al prologo dei dibattiti? Cioè, mentre io ti dico delle parole, cerco anche di spiegarti il più possibile che cosa intendo con quelle parole. Ma mi chiedo, questo si può fare? È possibile? È impossibile? Una domandina semplice. Sì, beh, no, vabbè. Per... allora, quello che dici tu è assolutamente vero. Cioè, nell'online abbiamo una serie di problemi in più che del resto tutti quanti abbiamo esperito presto o tardi, o nel non mi hai capito, ero ironico, no? C'è anche l'hashtag ero ironico, al fraintendimenti terrificanti che passano per esempio dall'aver messo non punto, no? Io spesso quando parlo della risemantizzazione della punteggiatura online faccio notare che per un ragazzino come mia figlia, se io scrivo, se lei mi scrive sei arrabbiata, io rispondo no, con o senza punto c'è una differenza di significato, no col punto sei arrabbiata, perché il punto è sentito come passivo-aggressivo. Cioè, questa è la roba che, per esempio, nelle relazioni intergenerazionali, vi prego di tenerne conto. Cioè, voi genitori, voi bimbi grandi, magari scrivete tranquillamente vieni a casa, punto, e non c'è nessuna cosa aggressiva, e il figlio si caga sotto perché dice oddio, ho fatto qualcosa, no? Questa cosa è talmente rilevante che quando io scrivo a mia figlia ti sto aspettando, punto, cioè, mamma, che cosa ho fatto? Nulla, ti sto aspettando con la pasta, no? Così, mia figlia ha 12 anni, quindi abbiamo questi dialoghi molto intensi. Che cosa dobbiamo fare noi? Allora, intanto prendiamone atto. Di solito tu e io, cioè soprattutto tu, parli del fatto che online siamo tutti diventati dei piccoli personaggi pubblici. Questa è una definizione che Bruno usa in Tienilo acceso. Io aggiungerei una cosa: siamo tutti diventati dei piccoli diplomatici. Cioè, mentre in diplomazia era naturale sapere che, per esempio, certe parole in certi contesti fanno da innesco della miccia, fanno scoppiare anche un conflitto, adesso ne dobbiamo tener conto un po' tutti. Col fatto che usiamo la parola scritta con questa nonchalance, a cui, perché in realtà noi non siamo abituati a usare la parola scritta così. Giuseppe Antonelli dice l'italiano, cioè l'italiano elettronico, è il primo vero italiano scritto informale. E ovviamente è conseguenza di quello che vi ho detto, che fino all'altro ieri l'italiano era quella cosa sacra che si studiava nei libri di grammatica. Allora, l'online ha portato anche a una desacralizzazione della scrittura. Cioè, oggi ci permettiamo di scrivere in maniera molto più casual di una volta. Questo ha portato però a una caterva di possibili fraintendimenti, eccetera, eccetera. Quindi uno, prendiamone atto, e due, ci dobbiamo riflettere di più. Cioè, sapere che una cosa, per esempio, una battuta che qui dentro è chiarissima, perché io, Bruno, Antonio ci conosciamo, ci vogliamo bene, siamo in ottimi rapporti, quindi io posso anche perculare i ragazzi per la loro abbondanza tricologica, che invidio a entrambi, no? Io infatti ho scritto questo è il panel più capelluto è di plastica conversazione. Non vorrei chiarire tu e la Ferragni avete lo stesso, no, una cosa che si svita è come Playmobil, è diverso. Vale, vedere quando si mette il caschetto da Cleopatra. Sì. Sì. No, ma io ne ho una ventina, adesso in viaggio più di 10 non me ne porto. Ora, a parte le battute, ma ecco, questa battuta io Antonio la posso fare. Cioè, se io e Antonio non ci conosciamo direttamente e qualcuno online ti dice belli capelli, ci sta anche che ti possa anche un po' risentire. Poi sei abituato, hai la buccia grossa, hai la buccia spessa, quindi... Però, cioè, io spesso nei miei libri parlo di una cosa che è l'effetto tinello. L'effetto tinello è quando le persone, fuori dal loro tinello, fuori dal loro bagno, si esprimono alla stessa maniera di quando sono dentro al loro tinello, dentro al loro bagno. Per sottolineare il concetto, di solito proietto una diapositiva di un paio di ciabatte di pelo rosa. Le ciabattone, quello col pompon, no? Quelle tutti quanti abbiamo un capo di vestiario o delle scarpe importabili per strada, no? Cioè andiamo a casa e sono, no? C'è chi ha la tutona di pelo intera, lo so, vi guardo, lo so, ecco. Che succede? Di solito ai miei ragazzi faccio questo esempio: che cosa succede se ci vai al lavoro? Cioè, se vai al lavoro con la tua tutona da mucca pezzata, intera di pelo, come ce l'ha Eva, come ce l'ha mia figlia, ovviamente o ti internano, no? O chiamano, cioè, o ti guardano male. Allora, quello è l'effetto tinello, cioè o sei Costantino della Gherardesca e allora puoi dire che è un fashion statement, oppure vieni preso per un coglione, in sostanza, no? Se vai in giro così, ecco, pensate che tutti lo fanno online con la scrittura, cioè di mettere in pubblico le loro parti, anche le cose, no? Tipo Boldrini deve morire decapitata. Cioè, io non è che vengo a sindacare che tu pensi questo di Laura Boldrini. Ognuno è titolato, secondo me, a avere delle opinioni impresentabili, io le chiamo così. Magari che nascono da un momento di rabbia, quello che volete voi. Il punto è avere l'intelligenza sociale, di capire che quell'opinione deve rimanere dentro al mio WC. Cioè, mentre sono lì che ponzo sulla tazza, posso averla questa opinione, ma se la scrivo su Facebook ha delle conseguenze diverse. Non è solo una questione di avere le opinioni giuste, è avere il sentore di qual è il modo giusto di comunicare in una certa situazione. Chiarisco ancora meglio, poi vi lascio parlare anche voi. Di solito ai ragazzi, ai giovinotti dico questo: tutti quanti abbiamo dei modi per chiamare i poliziotti, o i puffi, o gli sbirri, o la pula, la madama, ecco, ok, quella roba là. Ora, una cosa è se sono con i miei amici e dico, c'è una macchina di sbirri più avanti, rallenta. Una cosa è se glielo dico in faccia al poliziotto: salve sbirro. Però si potrebbe anche risentire, e quel mio atto linguistico potrebbe avere delle conseguenze fisiche, no? C'è una cosa bellissima, una branca della linguistica, che è la teoria degli atti linguistici, cioè il fare cose con le parole, no? Da una parte questo vuol dire: se io sono un poliziotto, ho il potere di toglierti la libertà, cioè il potere di dire io ti arresto. Se io sono un medico, ho il potere di dichiarare che sei morto. Avete presente uno dei miei piaceri segreti? È Grey's Anatomy. Ok, un po' ne vergogno. È 16 anni che guardo Grey's Anatomy. E infatti, allora, in Grey's Anatomy c'è sempre questa scena ricorrente: dichiara tu la morte, no? Dichiara tu, no? E poi c'è questo momento in cui il defunto è come una specie di limbo, non è ancora del tutto morto perché il medico ha detto a dichiararne la morte, non l'ha ancora fatto, e poi dicono ora del decesso è quello che è. Cioè, io medico ho il potere di dichiarare una persona morta. Allora, io ho il potere di fare queste cose quando sono in certe situazioni e ho un certo potere. Dall'altra parte ho il potere di rovinarmi la vita, cioè se io vado da un poliziotto e gli dico ciao sbirro, no? Quello magari mi mette le manette. Per cui usare bene le parole non è una questione di guanti bianchi, è una questione di sopravvivenza. Di sopravvivenza sociale, direi. Non so chi vuole. Io voglio aggiungere una cosa, perché c'era uno spunto che aveva dato Antonio sulla velocità della risposta, no? Questa tendenza a rispondere velocemente, che hai ragione tu, è del tutto psicologica, cioè ce la mettiamo noi. Perché in realtà in quello che sta dicendo Vera c'è una cosa fantastica, che nel digitale rispetto all'analogico noi abbiamo l'enorme privilegio di dover premere invio prima di dire una cosa, cosa che non ci accade dal vivo fisicamente. Anzi, e lo sappiamo tutti, quando facciamo la doccia e ripercorriamo tutte le discussioni della giornata, perché quello è il momento in cui, tra l'altro, siamo dei grandi disputatori sotto la doccia, perché avrei dovuto dire così, poi le dirò cosa, userò quell'altra parola. Però lì noi rivalutiamo anche tutte le parole che abbiamo detto e avremmo non voluto dire, ma ci sono uscite dalla bocca, ci sono scappate dalla bocca. Invece online effettivamente c'è un momento in cui abbiamo scritto qualcosa e dobbiamo fare un secondo atto di invio per dire voglio dire proprio così. Allora una volta ero in una conferenza con uno di questi responsabili delle piattaforme di social network, a cui la gente diceva ma perché non mettete un pop-up quando stai per premere invio? Che si apre e dice sei proprio sicuro? Ma la risposta fu geniale di questo responsabile, disse se lo facessimo le persone imparerebbero a fare doppio clic. Perché il punto non è la piattaforma che ti fa rileggere, ma è riconoscere il potere delle parole per iscritto. Allora credo che in questo ci sia un tema di rilettura che il digitale ci permette e abbiamo tutto il tempo, perché noi lo possiamo dire anche da social media manager, te poi hai gestito delle crisi in diretta, quei 60 secondi o 20 secondi in più per rileggere non fanno cascare il mondo, nemmeno se sei in una crisi di comunicazione nazionale con dei guai che stanno accadendo. Cioè quella rilettura e ripulitura per capire ma si capisce quello, per chiedersi si capisce quello che sto intendendo, si capisce che intenzioni ho oltre le parole, gli impliciti, cioè le parole che non ho scelto, che ho scelto di non usare, cosa stanno comunicando agli altri. Cioè insomma due o tre domandine così credo che ormai sia qualcosa che si devono imparare a fare tutti, non più solo gli addetti ai lavori che forse erano più abituati nei comunicati stampa, nelle dichiarazioni ufficiali di fare questo lavoro, di dire ma il pubblico riuscirà a capire quello che dico. Credo che ormai sia uno sforzo per tutti, che è proprio il potere alle parole di cui parli. Vorrei dire un'ultima cosa molto proletaria, anzi parlo di dare tanto per tornare lì. Chi è abituato a chi è stato abituato da decenni ad avere il megafono, cioè avere un'opinione pubblica visibile, no, avere un pubblico, tende a pensare di avere una sorta di diritto acquisito sulla comunicazione e sulla necessità della gente comune di capirli, no? Cioè quante volte succede che un VIP di qualsiasi tipo, cioè un intellettuale, un politico eccetera, dicono sono loro che mi hanno frainteso, siete voi che non avete capito la battuta, siete voi che non avete capito il mio pensiero profondissimo. Di solito si cita anche Umberto Eco, no? La famosa cosa, la rete ha dato diritto di parola a milioni di imbecilli che prima parlavano solo al bar. Ora io francamente non vedo un milione di imbecilli, io vedo milioni di persone che hanno avuto un megafono, che, a cui è stato dato un megafono che prima non avevano imparato, non gli era stato imparato, non avevano imparato a usare. Quindi ora siamo in una situazione in cui tutti in qualche modo hanno una potenziale voce pubblica, non è detto che quella voce pubblica sia educata a essere una voce pubblica. Ma io non ci sto a farmi dare di imbecille da chiunque, neanche da Umberto Eco, no? Per cui in una sorta di orgoglio dal basso io dico anche ok, adesso abbiamo il megafono, impariamo tutti a usarlo. Cioè è una grande opportunità che abbiamo, e badate bene, è una grandissima debolezza comunicativa imputare agli altri l'errore della comunicazione, cioè dire sono loro che non mi hanno capito. È successo recentemente a un giornalista della RAI che aveva scritto un post molto polemico nei confronti di Matteo Salvini, in cui lui a un certo punto diceva fondamentalmente in questa situazione ti sei impiccato da solo, no? E la lettura sbagliata, questo succedeva su Facebook, la lettura sbagliata era ha augurato il suicidio a Matteo Salvini. Ovviamente non dice questo, ma è interessante quello che succede poi. Il giornalista dice due cose: la polemica non sussiste perché io questo l'ho scritto sul mio profilo personale e non c'è il logo Rai da nessuna parte. Cioè pensate che oggi una vita a compartimenti stagni non esiste. Cioè io so bene che le cose che sto dicendo qua possono tranquillamente finire online, giusto per fare un esempio, ma so anche che fra la mia vita privata, di cittadina privata e professionista, non c'è una paratia stagna. Cioè io non posso essere, non so, attivista di un ONG nel mio lato A, nel mio lato professionale, e andare a dire i negri devono morire tutti sul mio profilo Twitter privato. Non posso, cioè se lo posso crea una discrasia, una schizofrenia di cui la gente si accorgerà, le persone si accorgeranno. Allora, uno, quello che lui dice non è giusto da questo punto di vista, ma poi dice un'altra cosa interessante: il mio profilo Facebook è come casa mia, ci faccio quello che voglio. Io correggerei questa cosa. il mio profilo Facebook è come il terrazzo di casa mia. Ora, se io esco in terrazza e inizio a fare l'elicotterino col pisello davanti a una piazza, in piazza Sant'Oronzo, tranquilli che arriva la polizia in 2 minuti perché ho fatto atti osceni in luogo pubblico. Allora, ricordiamoci che quello che facciamo online è un po' come essere sul terrazzo di casa propria, non nel salotto di casa propria. La visibilità è diversa, la conseguenza degli atti è diversa. Ste benedette parole le dobbiamo imparare a usare meglio, ma non perché, come dire, c'è necessità, ma perché è un gusto, perché è divertente, perché è figo avere più parole. Più parole hai e più sfumature cogli della realtà, per esempio, no? Cioè, premesso che ciò che dice Galimberti è sbagliato e che i giovani d'oggi non hanno perso tutte le parole che si imputa loro che abbiano perso, per esempio la genialità dei giovani va ricercata dove loro la mettono, quella genialità, no? Una cosa di cui io e Bruno, ma credo che anche Antonio ci trovi d'accordo su questo, discutiamo spesso, parliamo spesso, è forse tra la mia generazione e le generazioni successive c'è un gap più grosso di quello che c'era per esempio fra me e i miei genitori, premesso che io continuo a ricordarmi che quando io passavo 7 ore con altri matti attorno a un tavolo a fare i giochi di ruolo, i miei genitori erano convinti che fossi spostata e che sarei finita tossica, che probabilmente mi drogavo o qualcosa del genere. Cioè, i genitori che non capiscono cosa fanno i figli sono sempre esistiti. Quello che succede adesso è che apparentemente il figlio è al sicuro in camera sua e invece nel frattempo sta facendo danni online, no? Per cui dobbiamo un po' seguirli anche su questo. Ma non è vero che i ragazzi, per esempio, non sanno parlare o hanno meno competenze. Sapete, io credo che addirittura la peggior generazione dal punto di vista delle competenze comunicative siamo proprio noi. Cioè, i ragazzi di oggi su certe cose, per esempio sulle parole, sulla quantità di parole, non sono messi così male. Noi invece ci siamo un po' forse irrigiditi nel passaggio. C'è un'unica strada, secondo me, Bruno, e lo dicevamo in Tieni l'acceso, che è tante relazioni fra generazioni. Cioè, io seguo mia figlia su TikTok, anche se è una fatica. Conoscete TikTok? Qualcuno sì, qualcuno no. Googlatelo, è il social dove stanno i ragazzini, le ragazzine soprattutto, diciamo fra i 10 e i 15 anni. La star di TikTok è una ragazza di 15 anni che si chiama Elisa Maino e che ha qualcosa come 4 milioni e mezzo di seguitori, come li chiamo io, ma è una vecchia parola che usa anche Boccaccio invece di follower, eh? E vi consiglio di guardare questo cialino perché vi farà sentire uno tremendamente vecchi e due però vi aprirà nuovi orizzonti. Se gli date la possibilità di cogliere la cosa interessante che succede su TikTok, secondo me ne usciremo tutti tremendamente arricchiti. Però, per tornare alla questione delle parole, io non voglio fare l'esaltazione della bellezza della lingua italiana, che invece è un filone che va molto di questi tempi. Non lo faccio perché in realtà tutte le lingue sono favolose, cioè io ne parlo 4 bene, ne sto studiando una quinta, mi interessano molte altre. Non è che l'italiano è meraviglioso, le lingue sono meravigliose perché noi esseri umani siamo meravigliosi. E ieri, che ero in un'altra discussione con Faloppa e Barbujani, che è un neuroscienziato, si parlava anche del fatto di come in realtà non sappiamo nulla di come funziona il linguaggio, cioè a livello cerebrale sappiamo pochissimo. Chomsky è alla ricerca del punto da dove deriva la grammatica universale, cioè la competenza innata della lingua, ma in realtà da un punto di vista pratico non ne sappiamo nulla. Cioè abbiamo, come dire, una specie di magia, ecco, quella della lingua. Non è la magia della lingua italiana, è la magia delle lingue. Questa è un po' la prospettiva del libro. La magia delle lingue è unita al fatto che, lo ripeto un'altra volta e poi mi chiedo, non è una competenza, non è come dire so mettere bene insieme i colori dei vestiti. È qualcosa che vi cambia la vita. Cioè, usare bene le parole è qualcosa che ci rende cittadini più potenti. E questa è la mia, se devo identificare la mia missione all'interno del genere umano, la mia missione è quella di cercare di far capire alle persone che parlare meglio è un gusto, non è un favore che fai alla professoressa di lettere o a che ne so, ma è un favore che fai a te stesso. E io credo che questo maestro Manzi avesse capito molto presto, come poi l'ha capito De Mauro, che ha dedicato la sua vita all'educazione linguistica democratica. E vi ricordo che questa cosa non è così condivisa, tanto è vero che a cadavere ancora caldo di De Mauro hanno iniziato a demolirne la figura, dicendo che aveva tolto, aveva rovinato l'insegnamento della grammatica. È tutta gente che non ha capito nulla di quello che ha fatto De Mauro e della sua missione per tirare sull'ultimo, perché vi dico un'ultima cosa, in realtà il popolo bue fa comodo a tutti. Il popolo che è guidabile fa comodo a tutti. Non è una questione politica, è a priori. Cioè, un popolo che non interviene e dice ci state prendendo per il culo con le parole, fa comodo a tutti, destra, sinistra, alto, basso. Allora è per quello che ho scritto potere alle parole, è il potere alle parole di tutti, non solo di quelli che hanno il megafono, ma anche di quelli che l'hanno appena avuto. Basta. Esiste qualcosa di più di sottoscrivo tutto quello che hai detto, soprattutto la parte finale. Tu non puoi pensare di citare Umberto Eco che dice il web ha dato agli italiani la parola, ha dato la parola a milioni di imbecilli senza, sperando che io non torni sull'argomento, perché vedete, quando Eco disse questo, disse nel giro di alcuni mesi due volte, la prima volta disse il web è idiota, la seconda volta qualche mese dopo, nessuno gliel'aveva chiesto, disse che il web aveva dato la parola a milioni di imbecilli. Collateralmente è una cosa ufficiale, gli stavano consegnando la, credo, 367esima laurea honoris causa. Ora, lui, che non è un qualsiasi, diciamo, operatore della comunicazione, ma è il Cristiano Ronaldo dell'industria editoriale, sa benissimo che la notizia Umberto Eco ha ricevuto la 326esima laurea honoris causa, chiuse virgolette, non è una notizia. In che modo si poteva sperare che da quella circostanza uscisse fuori il titolo con Umberto Eco? Lui è l'esempio più clamoroso del fatto che di tutte queste questioni, se voi sentite parlare un operatore dell'industria di media ai vari livelli, dal più infimo, io, al più elevato, Umberto Eco, dovete sempre metterci una tara, perché non è possibile che di queste cose parli chi di queste cose rappresenta a vario titolo quella che, senza, non bisogna vergognarsi di chiamarla, è un'industria. È un'industria, funziona con gli uffici stampa che sono felici se vedono che la tua intervista alla fine di un evento pubblico viene ripresa da tanti quotidiani con un bel titolo che buca la prima pagina, lo schermo. Cioè, quindi tutte le volte che voi sentite questo avete uno spaccato straordinario di quella cosa che si chiama la cultura broadcast, che tuttora colpisce le generazioni, diciamo, dei trentenni, quarantenni, cinquantenni come me, sessantenni, eccetera. Voi non vedrete mai un augurio a Laura Boldrini di finire morta impiccata come era decapitata in un social network dove ci sono adolescenti, cioè altre generazioni, ma non perché, e soltanto perché magari manco sanno chi è Laura Boldrini, non solo per questo, ma proprio perché loro, per essere visti, per superare quella linea, diciamo, di, perché a tutti vogliono innanzitutto essere visti, hanno altri linguaggi. TikTok ne è l'esempio più clamoroso, che è tra l'altro lo strumento, provatelo, che ha trovato il miglior modo di far funzionare quella cultura del remix che è nel DNA di internet, così come era stata, diciamo, inventata. C'è un luogo dove un contenuto non è qualcosa di sacro e di originale, ma può essere, può trovare tantissimi byproduct, cioè tantissime versioni derivate, ok? Io guardo sempre via quando dico queste cose, perché sennò mi fulmina con lo sguardo. Ecco, chi dice, e sono le nostre generazioni, che Laura Boldrini deve morire decapitata, oltre a dire una cosa terrificante, l'odio, cioè, ma soprattutto ci sta segnalando la sua volontà di esistere mediaticamente, esattamente in modo assolutamente misero, nella sua parcella, nel suo spazio di visibilità, ma esattamente con lo stesso riflesso che per decenni gli ha insegnato l'industria dei media, quello che spinge una persona infinita che non ha minimamente bisogno di questo nei suoi anni più avanzati ancora anche lui sente il riflesso di esistere, lui che esiste ovunque, lui che è tradotto in 160 paesi, lui che è il Cristiano Ronaldo della situazione, perché è un, anche quello è un riflesso condizionato e colpisce dalle celebrità a chi naturalmente per anni di bombardamento di questo modo di vivere, di esistere, pensa di doversi ritagliare una fetta mediatica con questo strumento internet che non nasce per questo, e le giovani generazioni ce lo stanno insegnando. Sottoscrivo appieno. Tra l'altro su Eco noi facciamo sempre un distinguo, forse vuoi farlo tu così? Così sento anche la tua voce. No, nel senso che probabilmente Umberto Eco quella cosa la dice anche già sapendo di come sarebbe stata ricondivisa e come dire, che è un po' un autogol. Cioè, noi spesso diciamo nelle nostre conferenze, lo dici soprattutto tu che sei più bravo a dipanare tutto il pensiero, ma che nel momento in cui tu condividi quella cosa non ti rendi conto che sei parte degli imbecilli che hanno avuto il diritto di parola grazie al web, no? Per cui c'è una specie di circolarità che secondo me Umberto Eco, siccome era un furbone, forse aveva anche un po' intuito. Poi è vero che dall'alto c'è una certa allergia nei confronti dell'internet, perché non si è mai visto uno che a una conferenza di alto bordo, e non di alto borgo, ci devo sempre pensare, interrompesse il relatore, la star, per dirgli guarda che hai detto una stronzata, che è esattamente quello che succede online, che fa saltare i nervi a quello che invece abituava ad avere una certa predella. Cioè io l'ho visto succedere col presidente della Crusca, che in una conferenza mandata in streaming dice ricordiamo la figura dei Nazi Grammar, non sono Nazi Grammar, sono Grammar Nazi, perché Grammar Nazi vuol dire nazista della grammatica, Nazi Grammar vuol dire grammatica nazista. Licia Corbolante, che è una terminologa e che ha lavorato lungo con Microsoft e quindi è, insomma, è anche anglofona, scrive su Twitter veramente non è Nazi Grammar, Grammar Nazi, anche con la soddisfazione di correggere il presidente della Crusca. No, ovviamente queste cose una volta non succedevano. Io ci credo che a un certo livello non piaccia tanto questa cosa della rete. Comunque, se sei d'accordo, io chiederei al pubblico se... Sì, se ci sono domande, prima voglio fare uno spot sui tuoi libri. Cioè, perché bisogna di Veragheno? Perché i libri di Veragheno hanno un preciso effetto sulla gente, che non è quello di essere corretti, non fare errori. Spesso uno sta vicino a Veragheno e ha paura di quello che dice perché teme di essere corretto, invece non è questo. L'effetto di Veragheno sulla gente è davvero aiutarci a usare il potere delle parole. Per esempio, mi hanno fatto notare che in un articolo che ho scritto, che è uscito oggi, io uso alcuni termini come recondito, foriero e cacare nello stesso articolo, e l'articolo, cioè usandoli nel momento giusto, al posto giusto, e l'articolo è reso più leggibile sia da termini magari un po' più difficili sia da termini più bassi, e questo io devo, il merito lo do alla lettura e allo studio assieme a Veragheno. Cioè questa anche disinvoltura, come avete visto in lei, di dire la parolaccia al momento giusto e di tornare sul termine invece più alto, e questo è proprio il potere delle parole, non tanto non fare l'errore di grammatica, ma saper usare il potere che hanno le parole di attivare relazioni tra significati tra noi in tutti i registri, anche alti e bassi, in contesti plurali come questo. Quindi vanno letti tutti i libri, perché così si riesce a usare recondito, foriero e cacare nello stesso articolo, esprimendoci. Io credo di sì, solo una cosa prima di dare la parola al pubblico. I più grandi comunicatori forse del secolo scorso riuscirono a fare questo, fregarsene degli errori di grammatica, magari c'è di mezzo anche il dialetto di Liverpool, quando dissero she's got a ticket to ride, she don't care, no? She don't care. E questa è una cosa che è dentro le vite di ognuno di noi, anche un po' per l'età media che abbiamo, però vi spiega come, insomma, comunicare una cosa, usare la propria lingua in modo corretto è un'altra. Allora, se c'è qualcuno che vuole fare una domanda, abbiamo però un microfono a filo, quindi se non arriva, in questo caso è vicino, però anche le ultime file potranno avvicinando. Sta lasciando, mi ha detto. Il microfono, però io sto registrando. No, allora, funziona. È più il cavo, guarda. Bisogna tenerlo come... Ok, vabbè. Hanno il megafono da poco, per cui devono imparare. Però col tempo questa cosa non reggerà. Voglio dire, hanno il megafono da poco, impareranno ad usare, no, la diplomazia delle parole, la non aggressività, eccetera. Oppure non succederà, e quindi vuol dire che qualcosa, voglio dire che non è che impareranno, ma non so, dire innata pare brutto, però ecco, impareranno, cioè sei ottimista. E poi qual è la quarta lingua che stai imparando? La quinta? Sto studiando il bahasa, l'indonesiano. Vabbè, un interesse. No, allora mi sono parlato malese. Astonishing. No, il bahasa indonesio è diverso dal bahasa malese. Vabbè, no, appunto, per questo l'ho detto, scusate. Io già parlo delle lingue utilissime, cioè la mia prima lingua è l'ungherese, poi vabbè, l'italiano, poi il finnico, no, che ti apre delle vie, e poi l'inglese, finalmente, no? Allora, io sono ottimista come lo erano coloro che si sono occupati dell'alfabetizzazione nel momento dell'Unità d'Italia. Che se vuoi dire, se uno pensa 2,5% siamo fottuti, no? E invece si sono messi lì, e io e Bruno lo ricordiamo spesso in altri contesti, che lo sforzo maggiore, a parte a livello di governo, ma l'hanno fatto i maestri e le maestre, che a volte dovevano andare per campi a prendere i ragazzini per gli orecchi, perché a cosa serve l'alfabetizzazione, mi devi tenere le vacche, no? C'era un po' questa cosa. Quindi io sono ottimista, io penso che oggi nella società della comunicazione si stia cogliendo sempre di più la centralità della comunicazione, e tutto sommato è una competenza a basso costo, cioè non diventeremo tutti astrofisici perché è un po' complicato, però possiamo tutti diventare un pochino più esperti di lingua, secondo me. Io c'è un'altra domanda? Sì, vado io a fare il balletto. Vediamo se funziona. Sì, ma si sente anche senza. Sì, ma penso che... Ok. Io ho insegnato italiano per 40 anni e quindi ho anche avuto modo di conoscere diverse grammatiche, eccetera. Per esempio, qualcuno ha inserito la famosa grammatica, diciamo il modo di usare i nomi al maschile e al femminile, per quanto riguarda la cultura della differenza e tutto il resto, ed era messo in un angolino dove diceva è successo questo ma non ha preso piede, per esempio. Allora io mi chiedo questo, io frequento i social e ho 600-700 ex alunni con cui continuo a sentirmi, e per me è una cosa straordinaria. Allora, se fanno errori di grammatica, io in privato li correggo, certo, perché mi sembra il minimo che io possa fare. Ora mi chiedo questo, come si fa a coniugare la norma, perché io l'ho letto tutto il suo libro, l'ho letto senza sapere che lei sarebbe venuta qui, è stato un miracolo a cui ho potuto partecipare, ma l'avevo già comprato per mia, diciamo, per mio interesse. Allora, lei parla di equilibrio tra norma e uso, perfetto, ma io la norma la devo conoscere. Certo. Cioè, quindi, non è vero che i ragazzi parlano in un modo, eccetera, è vero anche, fa un bellissimo esempio a proposito dei nomi, quando cominciarono a venire da speculum, eccetera. Appendix probi, sì. Sì, praticamente probo era il maestro, il professore, eccetera, però piano piano poi quello speculum è diventato specchio, per cui avevano ragione i ragazzi e non lui che correggeva. Però il problema è che oggi siamo di fronte a questo, cioè i ragazzi scrivono sui social, scrivono anche molto male. In più c'è un discorso sociologico, diciamo, cioè quello che io, quando tu scrivi, siccome ti conosco, immagino come tu lo stia dicendo. Sì, certo. E quindi, se io posso dirlo anche con una grande tranquillità, guarda che tu sei una testina, loro lo leggono come ecco lei, e quindi properi, non dai miei studenti, da quelli che si trovano a inserirsi così. Allora, un insegnante, ecco, come fa un insegnante attivo, diciamo che è nella scuola, come lei suggerisce di coniugare questa norma con l'uso nella quotidianità? Posso, avevo quasi la stessa domanda, solo che la mia è più, diciamo, centrata. Io sto attenta all'uso del congiuntivo, peraltro insegno inglese, quindi, però quando quando si tratta di fare l'if clause, io li attraggo dicendo è il tempo dell'ipotesi, è il tempo del pensiero, attenti, ve l'hanno sottratto. La domanda è questa: lei faceva questo discorso di ordine di, no? Di in fondo scendere su quel piano, ma perché non difendere? Cioè, questo il mio è stato, è un espediente, intanto se è condivisibile, e poi come difendere quella che è una norma che però lascia maggiori libertà. Allora, in realtà qualsiasi trasgressione non può che partire dalla conoscenza della legge, no? Cioè, io prima devo conoscere come funziona la legge e poi posso dire che la sto trasgredendo, altrimenti sono ignorante, no? C'è una differenza tra l'ignoranza della legge e la trasgressione. Allora, questo vale anche per la norma. Noi dobbiamo avere gli strumenti normativi linguistici e poi decidere che in certi contesti posso trasgredire quello strumento che invece sarebbe in un certo modo. Quindi non ipotizzo assolutamente una, come si può dire, un depotenziamento della norma, cioè quella va studiata, io lo dico nel libro, cioè tu devi conoscere le leggi linguistiche e poi dire in questo contesto io decido di dire se lo sapevo non venivo e non se lo avessi saputo non sarei venuto, ma scientemente, cioè se lo sapevo non venivo, se quello è l'unico modo che hai di comunicare, tu hai perso roba. Invece devi avere tutto lo spettro, da quello più alto a quello più basso, no? Questa è un po' la mia idea. Come si fa a scuola? Per esempio, una cosa molto semplice che si fa poco è discutere dei contesti. Cioè, qua in un tema tu devi scrivere se avessi saputo non sarei venuto, no? Oppure credo che questa cosa sia in questo modo, ma poi ci sono dei contesti in cui puoi dire se lo sapevo non venivo oppure credo che è. Cioè, se io avrei... Se io, ma anche se io avrei, però se io avrei è giusto nelle interrogative indirette, no? Certo, mi chiedo se io avrei modo, chiaro, no. Poi ci sono anche quelle nascoste, tipo se ti piacerebbe un anello del genere, che in realtà è un'interrogativa indiretta molto camuffata, no? Se tu la metti in un copy di una pubblicità rischi di non farti capire, di passare. Infatti io ho scritto un altro libro che sta per uscire, che si chiama Prima l'italiano, dove l'idea è di avere una prospettiva sulla norma, ma per non scusate, ve lo dico molto brutalmente, per non avere rotture di coglioni. Cioè, la grammatica per essere... sappi che, per esempio, se scrivi qual è con l'apostrofo, c'è tutta una sezione di linguisti che dice che si può fare, ma preparati a difenderlo. Allora io dico sempre, tu devi usare la lingua che reggi. Cioè, cosa riesci a reggere? Io, per esempio, scrivo se stesso con l'accento, però, perché sono seriannina in questo, eccetera, eccetera, nel libro lo spiego, ma la prima volta c'è la nota in cui spiego no, non sono ignorante, sto seguendo l'insegnamento di Luca Seriani, ma io lo posso reggere. Se lo scrivo online, so che qualcuno salta su e dice oh, la linguista che scrive se stesso con l'accento. Lo reggi o no? Se lo reggi, fallo, se non lo reggi, non lo fare. Questo più o meno. Io credo che tra poco ho il transfer per il treno, quindi... Allora, l'ultima domanda è... Ok. L'episodio del tunnel. Ah! Episodio del tunnel... Invece, in quanto al potere delle parole come consapevolezza e anche consapevolezza della manipolazione del cambio di senso, certo. Mi riferisco alla battuta che hai fatto ai bocca al lupo, viva il lupo. Io credo che oggi ci meritiamo una società che non ha bisogno di spaventarti per invogliarti a crescere. Una società non più antropocentrica ma biocentrica, in cui io voglio sempre che viva, che mi uccida bene, che viva bene. E volutamente dico viva il lupo ai miei studenti stranieri che stanno imparando l'italiano, quindi potrei fare un atto di manipolazione perché so benissimo che si invita da sempre è antifrastico, sì. Si invita sempre anche a un livello inconscio a temere qualcosa perché poi tu ti faccia forte per superarlo. Io oggi mi sento di sì debole, non l'ho detto io, l'ha detto una caterva di filosofi molto prima di me, E quindi oggi io voglio dire, è vero quello che hai detto prima di fare quella battuta, potere delle parole vuol dire anche capacità di mediazione e se voglio anche di dire volutamente, viva il lupo, certo, sapendo che sto sbagliando. No, non è questo il punto è non a fare una ricostruzione storicamente errata. Per cui per me viva il lupo, io lo dico nel libro, viva il lupo, dillo, non c'è nessun problema, non mi venire a raccontare che l'origine è gli antichi credi indiani, ecco perché non c'entra nulla, per esempio... Cioè, allora sarebbe sciocco prendere proprio il lupo, no? Anche il gatto, anche la, cioè, tutti i quadrupedi portano, se possibile, gli animali in bocca. Questo era il senso. Poi se uno può dire, io la capisco la cosa, però io ho subito delle grosse polemiche online quando a, oddio, reazione a catena, ho spiegato l'origine del detto e è insorta una comunità, diciamo, vegana estremista, di quella nazi vegana, come dicono, che diceva no, non è vero perché ci sono le iscrizioni antiche maya, no. Cioè, il lupo è come l'orso in Russia, cioè il lupo è di standard, era solo quello. Dico questa cosa solo del tunnel, molto brevemente. Tanti anni fa io e la mia amica claustrofobica, non avendo i soldi, decidiamo di andare a Londra in bus. Era il primo anno che avevano aperto il tunnel sotto la Manica, allora io chiedo al bus, a Eurolines, ma si fa il tunnel o il traghetto da Calais a Dover? Loro mi dicono, no, no, il traghetto, il tunnel costa ancora troppo. Arriviamo dopo 3 giorni di viaggio in bus a Calais, iniziamo, cioè, ci sono un sacco di biforcazioni, ferry boat, tunnel, andiamo sempre verso il tunnel, la mia amica inizia a sudare e dice... sincerati, io non parlo niente, sincerati che andiamo a prendere il traghetto. Excuse me, do you speak English? Chiedo all'autista. No, no, no, je parle français, je parle français. Io non parlo francese, cioè solo queste cose tipo voulez-vous coucher avec moi e queste cose desunte ovviamente dalla... ecco. E questo dice che non parla altro. Io provo in vari modi, le tunnel, questo non ce ne compri pas, ce ne compri pas. Alla fine faccio, devo fare senza microfono. Andiamo per il tunnel, lei ha un attacco di panico, vabbè, per il resto. Poi abbiamo preso lo stesso il tunnel, ce l'abbiamo fatta, questo era l'aneddoto sul tunnel e sullo sciamanismo francese. Grazie. Io ringrazio Bruno Stoianni e Antonio Pavolini, i due cappelloni di conversazione futura. Simon e Garfunkel.